opreka se janne du en sempolo manafra neku you che testimony fm wo mankesim testimony fm wo mankesim poor amantem no singe di kanfo no size.